This is Francisca representing for Marduk Selecta. Special DigiKill and real ragamuffin Selecta since 2008. Roma it comes from. Exclusive. Real ragamuffin Selecta. Murder original digital killer since 2008. Murdoch selector since 2008. From Roma, Italy. Original killer selector this in all. Murdoch selector. Original digi-killer selector. It's a Roma, Italy scene since 2008 scene. Real ragamuffin selector. Open Jim said that. Squeeze the trigger. Boom. Ed eccoci qui, buonasera, questo è Life Boat Vibes. Io sono Murdoch Selecta, come sempre la domenica dalle 7 alle 8 e mezza, un'oretta di reggae da passare insieme. Oggi è una puntata molto particolare perché ho selezionato per voi 40 tune solo di reggae italiano. Non me ne volete male se ho scelto magari una tune di un artista invece che un altro o ho omesso alcuni artisti, ma mi sono reso conto che facendo questo lavoro il panorama reggae italiano è veramente carico. Shake it my Selecta. Sound system original old city style real ragamuffin guayaman senza censura mo della spasside famo lo stile real ragamuffin pompani bassi zompani sassi sarta chi zompa chi zompa la massi real ragamuffin style. Se prendo fiate penna mitraglietta la base va sverta e non m'aspetta rima veloce mai stanca mai doma ci metto passione ci metto il mio idioma. Real ragamuffin di di diffi di di taffi de famo lo stile real ragamuffin pompani bassi zompani sassi sarta chi zompa la massi exclusive. Real ragamuffin. Permanenti, crisi stagionali a metà prezzo. Chi fa assomiglia tutto e chi non piane manca in mezzo. E c'è la crisi, crisi, eppure noi non ci siamo mai arresi, arresi nemmeno ribellati perché divisi. Dividi impero e regnerai negli anni e i mesi, oh sì. E c'è la crisi, crisi, eppure i capitali non si sono erosi, erosi, sono gonfiati come rospi vanitosi. Noi a fine mese ci arriviamo con quasi, oh sì. Boom. Stretta è la foglia, larga è la via. Non è una favola, ma è una follia. Non passa un turno senza una cinta stretta. Non passa anno senza danne sotto botta. C'è sta chi suda, c'è sta chi lotta. C'è sta chi onesto, c'è chi spigne la garretta. Larga è la via, la foglia è stretta. Viene l'inverno e poi Natale arriva in fretta. Crisi, crisi, eppure noi non ci siamo mai arresi. Arresi nemmeno ribellati perché divisi. Dividi impero e regnerai negli anni e i mesi, oh sì. E c'è la crisi, crisi, eppure i capitali non si sono erosi, erosi. Sono gonfiati come rospi vanitosi. Noi a fine mese ci arriviamo col quasi, oh sì. Boom! Lusi, disillusi, disillusi, illusi. Ogni tre secondi sentimenti variegati. Mestro picciolocchi ce l'avrò pure appannati. Cazzo è tutto vero, è primavera e c'è la crisi. Per quanto ancora illusi, per quanto ancora illesi. Il sole baci belli ma assopisce rivoltosi. Che afa fa che caldo, tu non piangi sudi. Andiamo tutti al mare, sti cazzi della crisi. E c'è la crisi, crisi, eppure noi non ci siamo mai arresi. Arresi nemmeno ribellati perché divisi. Dividi impero e regnerai negli anni e i mesi. Oh sì, e c'è la crisi, crisi, eppure i capitali non si sono erosi, erosi, sono gonfiati come rospi vanitosi. Noi a fine mese ci arriviamo col quasi, oh sì. Boom. Crisi stagionali convenienti, crisi stagionali permanenti, crisi stagionali a metà prezzo. Chi fa piglia tutto e chi non piane manca in mezzo. Crisi de panico, de ansia identità. C'ho il fiato corto, non riesco a respirare. Una crisi viene e un'altra va. spirale ciclica de stagionalità. Te dico, crisi de panico, de ansia identità. C'ho il fiato corto, non riesco a respirare. Una crisi viene e un'altra va. Spirale ciclica de stagionalità. E c'è la crisi, crisi, eppure noi non ci siamo mai arresi. Arresi nemmeno ribellati perché divisi. Dividi impero e regnerai negli anni e i mesi. Oh sì. E c'è la crisi, crisi, eppure i capitali non si sono erosi. Erosi, son gonfiati come rospi vanitosi. Noi a fine mese ci arriviamo fuor quasi, oh sì. Level, level, level, mai Siletta, level. Questa era la centrale sound dal 98, un sound principale e fondamentale della scena comunque laziale, di origine civita vecchiese e fa parte praticamente della mia storia, del mio passato. Un altro sound che volevo farvi sentire è un sound romano, questo qui è il Baracca Sound, listen that. On the mic! Sempre più on the mic. Certo, ogni pezzo mio c'è. Parola non c'è sta, quando te guardo vedo e sento quello che c'ho dentro già. Sofrifica una cosa dentro che te so spiegare. Un'altra faccia dell'amore, t'arriva dritta al cuore. Con una scarpa e una ciabatta, a me mi piace il son baracca. Che nasce sì dal mare, che splende come il sole. Meraviglia, son baracca. Non si ferma, non si rende come spacca. Un son che ama, son che impara. Che non si vende, non si compra, un sono che è una realtà. La cosa è certa e assai probabile. Ogni pezzo di sto sound è un valore incalcolabile. La danza col suo figlio, la mia scheda ricaricabile. Mille le emozioni, dei valore incalcolabile. Battere e levare è regola imprescindibile. Che con raga maffi poi diventa inarrestabile. Come il cristiano la domenica va alla messa. Non sabato sera andiamo dentro a una danza. E so brillanti, accecanti e senza meno di più fluenti. Migliaia dei pensieri che girano tra ste venti. Emozioni e vibrazioni molto calienti. Sono baracchini doc, senza precedenti. La catena che ci lega no, che non si può spensare. Perché è fatta sia col cuore che col corpo e l'anima. Diversi siamo fatti strano, ma la verità. Sempre vicini e lontani, ma traditi sempre uguali. Una delizia, un'amicizia vera no, non c'è malizia. Se parla del futuro, se parla di giustizia. Quando alzi l'occhio al cielo e pensi dove va a finire. Lo stiamo proprio lì, lo stiamo proprio lì. Meraviglia, son baracca. Non si ferma, non si rende come spacca. San che ama, san che impara. Che non si vende, non si compra. Sono che è la realtà. Non si rende mai. Tocca le coscienze dei mille come noi. Luce pacco raggio. Ogni cosa è bella fatta col suo linguaggio. Brilla luce propria. Raggio di speranza dentro a sta società. Bacia le mani a sta realtà. Raggio di speranza, forza e dignità. Che con la tranquillità che tu appresso te porti. Con quegli sguardi che sto pieni dei ricordi. Con la voglia di ride pure se a forte te lo scordi. Forte di calore dentro lì più grigi inverni. E voi fate il vostro gioco che io faccio il mio. Niente presunzioni, credo solo al mio Dio. La semplicità nell'animo, quel che so io. Solo con sta musica io mi ripio. Meraviglia, son baracca. Non si ferma, non si rende come spacca. San che ama, san che impara. Che non si vende, non si compra. Sono che è la realtà. È come il mare, è come il fuoco, è come l'aria che respiro. È come il mare modo, è come quando l'infinito. Quando alzi l'occhio al cielo e pensi dove va a finire. Non stiamo proprio lì, non stiamo proprio lì. Meraviglia, san baracca. Non si ferma, non si rende come spacca. San che ama, san che impara. Che non si vende, non si compra. Sono che è la realtà. Come definire la parola non c'è sta. Quando te guardo vedo e sento quello che c'ho dentro già. Semplifica una cosa dentro che te so spiegare. La faccia dell'amore non si rende mai. Non si arrende mai, non si arrende mai il Baracca Sound da Roma, attivo da molto tempo. Sentiamoci un'altra traccia loro. L'immensa felicità che mi dà gira su sta terra qua. Oh. Adollo, figlio del callo, fece la palma di noce di cocco. Voglio gustarlo, quando me cullo, sopra la sabbia del fine corallo. Ah che bello, so tranquillo, levate le magoni dal collo. Questa è la bella copia del mondo. Adollo, figlio del callo, fece la palma di noce di cocco. E ne sballo, quando di notte, vado alla playa nudo a ballarlo. E ne bagno, come di scallo, mamma mollo, innamo a fallo, mamma mollo. Vado a zonzo besta terra e voilà, me ne vado a zonzo senza meta. Oh papà, non te preoccupa e voilà, voilà, voilà, voilà. E andiamo su e giù, senza la tv, nelle danze dei tribù e poi nel freddo degli iglu. Namo su e giù, senza la tv, sulle dune del deserto vado blando sul cammello. Sì, tu non puoi capire, non te lo immagini, quante cose c'ho da lì. Namo sì, tu non puoi capire, quante cose c'ho da fa, una di qua e una di là. Oh mamma, me ne vado a zonzo besta terra e voilà, me ne vado a zonzo senza meta. Oh papà, non te preoccupa. Di noce di cocco, voglio gustarlo, quando me cullo, sopra la sabbia dei fine corallo. Ah che bello, so tranquillo, levate le magoni dal collo. Questa è la bella copia del mondo. Adollo, figlio del callo, feci la palma di noce di cocco. Che ne sballo, quando di notte, vado alla playa nudo a ballarlo. E me bagno, come di scallo, mamma mollo, innamo a fallo, mamma mollo. Ha preso un parallelo, fammi una nuotata nell'oceano pacifico, rimane appendiato allo sperone appenninico. A nascondino nella foresta amazzonica, a campana sulle atolle in Polinesia, bussando sulla porta d'oriente per poi rotolarmi nella danza del ventre. Oh mamma, me ne vado a zonzo besta terra e voilà, me ne vado a zonzo senza me. Calcagna, sì, tu non puoi capire quante cose c'ho da fa, una de qua e una de là. Andiamo su e giù, senza la tv, nelle danze dei tribù e poi nel freddo degli iglu. Andiamo su e giù, senza la tv, sulle dune del deserto vado blando sul cammello. Zonzo besta terra e voilà, me ne vado a zonzo senza meta. Yes, questo era il Baracca Sound da Roma. Vorrei rimanere in zona, vi presento un altro gruppo molto importante della scena reggae italiana, direttamente da Fiumicino. Questi sono Le Radici nel Cemento dal 93. Listen that. We'll be right back. insegnato a un giocarello. Se fa mezzo agli amici quando tirano spinello. Se quello che c'è accanto per dispetto non badalla, te nasci con sta parola bella bella galla galla. Cicileu, Cicileu, Cicileu, Cicileu, l'ho detto prima, l'ho detto io. Cicileu, Cicileu, Cicileu, Cicileu, l'ho detto prima, l'ho detto io. Se dico che devi stare sveglio, sì, devi stare sveglio se vuoi fumare. Se dico che devi stare sveglio, non t'addormire, non te sbagliare. Se senti una parolina che s'insinua, Cicileu, rispondi, rispondi, rispondi, rispondi, rispondi. Cicileu, Cicileu, Cicileu, Cicileu, l'ho detto prima, l'ho detto io. Cicileu, Cicileu, Cicileu, Cicileu, l'ho detto prima, l'ho detto io. A me sto gioco mi piace, pure sei un po' clandestino, pure se me devo nasconde come fossi un ragazzino. E non posso andare in piazza a fa vita sociale, a fa girare una canna e poi nient'altro de male. Me lo vieta sto governo un po' ignorante e repressivo, me l'ha vietato fascio la DC e mo l'Ulivo. Un po' per l'ignoranza de non sapere che non fa male, il moralismo della gente che se crede più normale. Ne trovo per fare i soldi col commercio criminale, soprattutto sempre comunque in mantenere il controllo sociale. Ma noi ce lo sapemo che non famo niente di male, ed è per questo che volevo la marijuana. Cicileu, Cicileu, Cicileu, Cicileu, l'ho detto prima, l'ho detto io. Cicileu, Cicileu, Cicileu, Cicileu, l'ho detto prima, l'ho detto io. Cicileu, Cicileu, boom boom, Cicileu, Cicileu, boom boom, Cicileu, Cicileu, boom boom, Cicileu, Cicileu, boom boom, Cicileu, Cicileu, boom boom, Cicileu, Cicileu, boom boom, Cicileu, Cicileu, boom boom, Cicileu, Cicileu, boom boom. Cambia. A me sto gioco mi piace, pure sempre clandestino, pure se me devo nascondere come fossi un ragazzino. E non posso andare in piazza a fa vita sociale, a fa girare una canna e poi nient'altro de male. Me lo vieta sto governo un po' ignorante e repressivo, me l'ha vietato il fascio, la DC e mo l'Ulivo. Un po' per l'ignoranza di non sapere che non fa male, il moralismo della gente che se crede più normale. Dentro un po' per fare i soldi col commercio criminale, soprattutto sempre comunque in mantenere il controllo sociale. Ma noi ce lo sapremo che non famo niente di male, ed è per questo che volemo la marijuana. Radici nel cemento con il loro stile divertente, simpatico, fresco. Tra i pezzi che ho selezionato sempre delle Radici nel cemento non può mancare un pezzo uscito nel 2006 che a me piace moltissimo e lo voglio condividere con voi. Listen. In the Roma nati DJ stai lì. We know I'm from Jamaica before me Italy. Forse mi spiego meglio quando parlo così. Pane al pane, vino al vino, boh, famosi a capì. Oh, com'è buona la cucina casareccia di Roma. Non è plasticona come quella che fa McDonald's. In una parola ognuno parla come mangiando si trova. E a casa mia è sempre festa, che ci sia pasta, che ci sia minestra. Mi madre a falla è una maestra, quando scodella nessuno protesta. E casareccia è genuina, niente OGM nella mia cucina. Si mangi gnocchi o fettuccina, il mattarello ha fatto la sfoglia fina. Con mamma e nonna in combination, alli fornelli ci fanno una session. Soffriggia dritto, soffriggia rovescio, che quando è ora qua vanno depression. Hai da sentì poi oh quanto è squisito, è pronto l'abbacchio a scottadito. Con le patate al forno bello è servito, se non ce l'hai fa venire l'appetito. Con la lamento c'ha la gripa romana. Non ti scorda spolveracce la grana. Basta guardate, basta lenticchia. Peperoncino cubi un'antichia. È quello buono, è quello che picchia. Faccio piano sentirai come fischia. Oh, com'è buona la cucina casareccia di Roma. Non è plasticona come quella che fa McDonald's. In una parola, ognuno parla come magna non si trova. Mettice di bucatini alla matriciana. Recetti cicoria, sarti in bocca alla romana. Pensate a testa quando c'è la parmigiana. Il trionfo della dieta mediterranea. E la scarola indivia e valeriana. Fino a che carote a maggio la fava romana. Tutta prima scelta vegetariana. Sta in confidenza con la fia dell'ortolana. Carciofi alla giudia con le porpette. La mortadella, la pizza e le rosette. La coratella fritta vuoi mettere. E mille, mille, mille altre ricette. Per carità buono riso alla cantonese. Con lo giamaicano, zighini, zuppa inglese. L'altre cucine non si sentano offese. Si è Roma caput mundi del bel paese. Oh, oh, com'è buona la cucina casareccia di Roma. Non è plasticona come quella che fa McDonald's. In una parola, ognuno parla come magna non si trova. Oh com'è buona la cucina casareccia di Roma. Oh com'è buona la cucina casareccia di Roma. Oh com'è buona. Le radici nel cemento. Storica. Storica Chun. Rimaniamo a Roma. Un'altra crew importante che non posso evitare di citare, di certo, è la Villa da Pos. È una crew ragamuffin romana. Le tracce loro sono miriade, di stampo comunque molto vecchio, essendo partiti comunque tantissimo tempo fa. E vi faccio sentire la prima traccia selezionata. Sempre da questa compilazione. All Rasta man live up straight up, don't give up. All bongo man shanty. All Rasta man in the hills, and Naya Bingi, all crew. As we move on, about ya, me say. Tum tum tum tum balli, funetari lassi. Senti la bene di questa villa da massi. Phenomena one, phenomena two, phenomena three. All along my master man, listen to me. This is an open rhythm of the different style. And the woman come, I wanna be from the Irie. Phenomena one, phenomena two, phenomena three. Se la musica ti tocca, certo che non soffrirai. Anzi ti darà la forza per non fermarti mai, mai, mai. Vieni a ballare insieme a noi, se poi vai. Zumbi, balli, fumetta, rilassi. Senti la bene di questa villa da massi. Zumbi, balli, fumetta, rilassi. Senti la villa da massi. Sul brusco della villa a me mi piace da cantare. Questo allora è la manna, non mi posso da fermare. È la villa da base in questo stile speciale. È la villa da base che te fa da bruciare. Ciò, canto perché amo il reggae, mamma non per svoltare. In tasca ancora lira e continuo a sperare. Spero che non è che svolga una funzione sociale. Con ballare i quattrini invece voglio addormentare. Zumbi, balli, fumetta, rilassi. Senti la bene di questa villa da massi. Zumbi, balli, fumetta, rilassi. Villa da Massi. E questa è la danza dove la gente balla e mai e non si stanca. Io mi reina, manna, bonna de maica, bonna mi senta. Mezzo in italiano, mezzo in faccia, lui te canta. Villa da passe femmini, quadre, quadranto, fego, il santo ovunque monta. Perché metteci in cuore quello che realmente conta. Secondo me manna una version veloce, una normale oppure una lenta. Vivo buona, voglia, manna come Maxi Momma. Dite no quando una base scotta. Veloce con la voce tocca che fa la piotta de fretta. Con l'amici mia devi la manetta. Senti brusco come strilla. La musica è speranza. Anche se la senti chiusa in una stanza. De dentro la danza non è mai abbastanza. Perché mi dà una gioia immensa. Again. Zumbi, balli, fumetta, rilassi. Senti la bene di questa villa da massi. Zumbi, balli, fumetta, rilassi. villa. Senti brusco della villa, canta con papà Moraina. Milano, passe family, ad e convini e shine. La dentro ci stanno pure cinque mai caldana. Bingo, pono, c'è stessa, sta mota, zinga, guana. Ma già c'ha facilette, poi c'è Pecos che controlla. E poi c'è tutta la mossa che si tende tra la palla. Vuoi essere pure da Pippo, pure uno che gliela molla. Allora viete a cantarla. Zumbi, balli, fumi e da rilassi. Senti la bene, dico, stavi là da massi. Zumbi, balli, fumi e da rilassi. Senti la villa da massi. Fantastici, fantastici, villa da post. Fantastici, fantastici. Ve ne faccio sentire un'altra subito così a bruciapelo. Se va, se va, se va. Yeah. C'è chi crede solamente al business, ma sto mondo qua è pieno di stress. Ciò non fa per me, e lo sai perché. Credo nei sogni e nelle idee. Chiedo un piccolo timeout a sto grigione per vedere com'è fuori stamattina se c'è sole. Oggi cerco un tocco di colore per la fantasia che ho. Questo mondo muore, qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta dei sogni e dei idee. Qualunque cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta dei sogni e dei idee. Poi chiudo gli occhi e mi abbandono, cerco una parte del tuo. Sento triste o solo, sento sto ritmo che mi rimette a nuovo. Senza le idee cos'è uomo, solo un involucro che dentro è vuoto. Tengo per me ciò che provo, se cerco conforto qua dentro lo trovo. Qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta dei sogni e dei idee. Come again, qualsiasi cosa sceso, ma io non me nascondo, no. Vado armato solamente dei sogni che ora in mente c'ho e di quelli che domani farò. Niente me scalfisce come il mare, come una montagna. Manco il fuoco se me brucia, l'acqua se me bagna. La gente che se lagna di ciò che guadagna. Quando qua c'è sta chi manco bagna. Vorrei lasciar qualcosa su sta terra prima d'andar via. Per questo voi fratelli cerco l'armonia. Con la bossa e qua al mio fianco famo una magia. Con le rime fuse in una melodia. Qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un nome la sua strada che è fatta dei sogni e dei dei. Come again, qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un nome la sua strada che è fatta dei sogni e dei dei. Sogni e speranze danno felicità, nuove idee per la creatività, un'alternativa a sta realtà fatta di lotte e di rivalità. Sono un sostegno per chi sta un po' giù, chi soffre non ce la fa più, anche nell'era della TV, se guardo su io mi perdo nel blu. Qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta dei sogni e dei dei. Ogni cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta dei sogni e dei dei. Poi chiudo gli occhi e mi abbandono, cerco una parte del tutto che sono. Poi se mi sento triste o solo, sento sto ritmo che mi rimette a nuovo. Cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta dei sogni e dei dei. Come again, qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada sogni e le idee della Villa da Pos, pezzo comunque che ha fatto la storia, vorrei scindere quella lì che è la Villa da Pos e tirare fuori uno dei cantanti, forse una delle voci più caratteristiche. In passato si chiamava, venne chiamato anche Papa Giovanni o Papa G, più conosciuto come Brusco, in attivo dal 91. Questa è la canzone che ho scelto per voi. Ascoltiamola insieme. Se ma dai, ah no, è che non sai. Musse va bambli bam bam bam bam bli bam bam bam, mo senti bambli bam bam bam bam bli bam bam bam, mo senti bambli bam bam bam bam bli bam bam bam, mo senti bambli bam bam bam, senti Brusco che sta qua, mo bella tutti mo bella sci, vengo da Roma e mo sto qui, Rhino lo va Italy, per tanti chilometri, siamo venuti con una Jeep, io c'ho la Pirelli, c'ha la guida, come la crew dei veri VIP, come le meglio stelle dei film, tutte le gare dicono sì, ci farebbero pure lo strip, ci darebbero pure gli slip, perché siamo fatti così, niente niente freak, niente roba da serie B, negli hotel ci danno le suite, roba chic alla Brad Pitt e Marco nella danza. Sono a Puccio e Biniman, molti chi la sisla, ovviamente chi è Bretan, Mr. Lex, Elferman, Anthony B121, coglierà l'eredità europea dei Rodigan. Noi c'avemo una cifra di fan, sin da quando che stavo la VAP, perché siamo i number one, io con lo speech e lui con i dub. Qui a Roma in ogni città, in tutta l'Italia, siamo delle celebrità. Un bocla, questo è il sound della tua città. La gente che lo sente dice un bocla. La gente che lo sente dice bombo clac. Se non ci credi, voglio che indaghi, voglio che chiedi a tutti i sound boy, a tutte le lady. Mo qual è il sound che sta sempre in piedi, anche di fronte ad assalti, ad assedi. Pieni di forza, più dello Jedi, per chi c'è sfida, zero rimedi. Se non ci credi, vieni qua e vedi, meglio che siedi. Alza le mani, se vuoi sentire da play giamaicani. Alza le mani per i sound boy italiani. Senti lo stile di sti veterani e senti Brusco che sta qui. Questo è il sound della tua città. La gente che lo sente dice bombo clac. Questo è il sound della tua città. La gente che lo sente dice bombo clac. Sulle mani a modo di pistole spara. Già se sa che sto sound è prima d'ogni gara. Te vuoi mettere contro questa crew, mamma gara. Mamma gara, vado a prendere la lupara. Non buttare i soldi né da preda vita è cara. Meglio se risparmi per poter comprare la bara. Il sangue cola come le cascate del Niagara. Zitto e impara, qui c'è l'asso de denara. Questo è il sound della tua città. La gente che lo sente dice bombo crack. Questo è il sound della tua città. La gente che lo sente dice bombo crack. Questo è il sound della tua città. La gente che lo sente dice bombo crack. Questo è il sound della tua città. La gente che lo sente dice bombo clac. Bombo clac. Un altro personaggio comunque importante della Villa da Pos di certo è Ginko. Nel 2013, insieme alla collaborazione importantissima con la Shanti Band, crea questo pezzo che si chiama Vampiri. Ve lo faccio sentire. Al mondo intero, assetati sempre di denaro, autorità. Con il nostro spirito noi vi accecheremo e una freccia avvelenata poi vi colpirà. Voi siete vampiri e noi tribù del mondo intero. A noi basta cibo, cultura e dignità. Non potrete mai fermare il libero pensiero e il nuovo vento che vi spazzerà. Privati privati dei beni comuni, da privati immuni anche ad ogni controllo. Si vedono luoghi opportuni a decidere come attaccarti al collo. E mentre per fame digiuni ti succhiano il sangue fino al midollo. Noi schiavi che tirano funi, che salvano alcuni da rischio tracollo. Ormai pare proprio evidente, se ne sei cosciente, che è come un complotto. Politici servi di banche che stampano soldi ma poi vanno sotto. Finanza che controlla i media che tengono in vita un sistema corrotto. Qui è come la corsa di un pazzo che non vede più un cazzo finché non fa il botto. Io non penso d'essere matto, si vive sotto ricatto, licenziamento coatto, o lavori poco e senza contratto. Alcuni neanche sanno cosa mettere nel piatto, di fatto non mi adatto, ma non sono come il topo col gatto e il vampiro lo combatto. Per un mondo giusto, un mondo giusto, un mondo giusto, un mondo giusto, un mondo giusto, un mondo giusto. Io voglio un mondo giusto, un mondo giusto, un mondo giusto. Un mondo giusto, un mondo giusto, un mondo giusto. Voi siete vampiri ed anelate al mondo intero, assetati sempre di denaro, autorità. Con il nostro spirito noi vi accecheremo e una freccia avvelenata poi vi colpirà. Voi siete vampiri e noi tribù del mondo intero. A noi basta cibo, cultura e dignità. Non potrete mai fermare il libero pensiero e il nuovo vento che vi spazzerà. Ora basta col profitto, chi è ricco è sempre più ricco. Chi non ha il letto, chi non ha il vitto, chi non può più pagare l'affitto. Il mutuo è come il pizzo, avere una casa invece è un diritto, mentre per altri è solo uno sfizio. E qui sale il conflitto, perdono il pelo ma non il vizio. Tanto il reato sarà prescritto, intanto tagliano ogni servizio. Ma non toccano il vitalizio, si mangiano tutto, non lasciano spiccio per soddisfare un altro capriccio. Davanti al nostro giudizio, pollici versi, neanche uno dritto. Voglio un mondo giusto, un mondo giusto, un mondo giusto. Un mondo giusto, un mondo giusto, un mondo giusto. Io voglio un mondo giusto, un mondo giusto, un mondo giusto. Un mondo giusto, un mondo giusto, un mondo giusto. Io voglio un mondo giusto, un mondo giusto, un mondo giusto. Un mondo giusto, un mondo giusto, un mondo giusto. Io voglio un mondo giusto, un mondo giusto, un mondo giusto. Un mondo giusto, un mondo giusto, un mondo giusto. Era Ginko con la traccia Vampiri e mi dispiace non poter citare altri artisti, però il tempo è poco e come ho detto all'inizio ho dovuto scremare molto. Ci spostiamo, andiamo giù al sud dell'Italia e nella Murgia e vi ho portato Yerba Pipa Pos. Ma ci stanno aspettando, esce! Oh, ma non me non vengo, cazzo! Mo veng, mo veng! E cecca! Mentality, mentality, titi, mentality, ADJ, mentality. Mentality, mentality, titi, mentality, ADJ, mentality. Easy man, si son di Joan, fanno rap a mo fin ormai caso tandan. Easy man, si son di Joan, diffondan sta musica pa tutta la ban. Easy man, si son di Joan, o stila buvariella si stampa da rinda cap. Easy man, si son di Joan, la mucha connection no con lo stile afro campan. Non hai usa pistola, non ne voglio usare microfono è l'unica arma che se c'è io sei. Quando me la canta poi ne me fece stand. Quando me la canta tutte pozze su berretto dico easy no man, easy no man. Portiamo messaggi dico a tutte fantole dico easy no man, easy no man. Portiamo messaggi dico a tutte fan. Mentality, mentality, mentality, mentality. da che sì, in dalla terra mai mi cura ogni malattia, mi sento mentalità, capisci da che sì, in dalla terra mai mi cura ogni malattia, sto nel rambo e comando in adi danzo stai lì, ragamo fin vuoi per mai è una malattia, non c'è incolcia, dico è reality, mi sento mentalità, mentalità, te lo dico. Mentality, adige mentality, me siente mentality, mentality, me siente mentality, adige mentality. Te la dica, muove da zomba la balla, la dica, no, no, non da farma. Quando si anda rap, amo finna, cumieggia tu mutia. Muove da zomba la balla, la dica, no, no, non da farma. Veterana, ringo, stila, sina, songo, tu giua. Muove da zomba la balla, la dica, no, no, non da farma. Che sta musica anda vita, da na levi e penofra. Muove da zomba la balla, la dica, no, no, non da farma. Veterana, si da rica. Da quando ieri me non cam la voce cantan, da quando ieri me non cam la voce improvisan, da quando ieri me non appena voce portan, da quando ieri me non cam faccio stila luba dentro la dita. Afro campana e mucha connecciana e cancina mi pochi te macchina mi an. Rambo e comando original veterano in dalla danza le dita son de tantan la canta a Londra, Jamaica e pure in Italy. Non si me guagnam cresciuto in mezzana vi. Da găsi, ormai eu sunt de tandan, dică tu ti di. Da quando ieri me nunca me la voc cantan, da quando ieri me nunca me la voc improvisan, da quando ieri me nunca ci me canoșă, me chemă Aluba Man, te dică Aluba Man. Alla mercy, wiki, wiki, wiki styli, rambe comandate nano wiki styli lele. Wiki, wiki, wiki styli, siento la buena que está wiki style lele. Wiki, wiki, wiki styli, è tutta questione mentality. Wiki, wiki, wiki styli, siento la buena si caso due gianni te la dica come la vena rindaga parindo fora. Ragamo fin arrangiata sulla be signora, ragamo fin ignorante tenga rindo cora. Viedamo da riga si na stama stritta stritta ora. Ragamo fin rambe comando si diffonda na da riga caso tandana. Viene la mua priesa si ne DJ style. Ragamo fin si na killer e DJ te la dica. O bubariella si na cante se ne va, si na veloce riga in un nuovo forma. Non ci sta competizione ma si devo attacca. Va nella presa sina a comincia da barra. Come la vena rinda caparindo gora. Rangamo fin ignorante sulla be signora. Mentality, mentality, mentality, mentality, te la dica. Mentality, mentality, mentality, mentality, mentality, mentality, te la dica. Mentality, mentality. Ah, di certo la coppia reggae che a me piace di più in Italia è questa, l'Elba Pipa Pos. Abbiamo Uruman e Papa Buju. Un altro pezzo che a me piace tantissimo è di Uruman e Pacoman. Listen. Original style and style, style and fashion. Man pupa tekal mal Uruman. Haha. Nessun nome è un'isola, non si può stare soli. È la prima regola per tutti gli esseri umani. Fare terra bruciata intorno non ti potrà aiutare. Questa è la verità, da soli non si può proprio stare. La prima regola per tutti. esseri umani. Fare terra bruciata intorno non ti potrà aiutare. No, no, no, no, no, no. Questa è la verità, da soli non si può proprio stare. Ho voglia di tenere vinchi con concito il babilù. Ma forse non ha capito bene lo senso della parola. Non te la spiego io, c'è significato un po'. Adesso ci ascoltiamo un pezzo di Papa Buju e Paco Ten. Listen. In das Moon, sempre più tecnologico. iPhone, iPad, tablet, ma non ma come se te sine da tre cassette. The Ribby Bonner, the Ribby Bones Gang. The Ribby Bonner, the Ribby Bones Gang. The Ribby Bonner, the Ribby Bones Gang. Papa Buju on the microphone again. Damo te di che nu fat, tu di che dialette. Bob Marley era la prima cassette. Suoni modula, seconda cassette. La Salento Ponce, la terza cassette. Tre cassette, tre cassette, erano tre cassette. Tre cassette, tre cassette, erano tre cassette. Amma come zeta, sin da tre cassette. Mo tutto l'amor, giusto che hai nato di skit. Sin da luba de nu se caie pupa buciu. Cavambă de fuego se caie mastaci. Galang, galang, e frate mă roman. Bibă, bibă, udișu frede iutăman. Ca de mână care, udișă pagoten. Com lina di danță, udișă martufe. Ca stai frate mai lex, n-o puete frâme. Păche da, tre casete cum în zedu ezape. Tre casete, tre casete, ieră în tre casete. Tre casete, tre casete, ieră în tre casete. Am acum în zedu sină, da tre casete. Mă tută la mor, ce-ste chiar n-a de deschid. Sunt boy, inda de solii pizza candănă. Sunt gal, inda de solu culă movenă. Stone tanta, sunt boy, ca să refornișenă. De gancia bună, ca pot să portănă. A la danțală, se la fumănă. A la danțală, se la fumănă pe cheie. La vibrațiunea giustă, volă n-a cheie. Pe cheie la vibe-a giustă, ce dină date. Ca ci vine soba murge, e la mentală te. Ca ci pasă da lumomba, e la mentală te. Ca ci stecă canciuz nesă, e la mentală te. Pe cheie da, tre casete, am acum în zetu se. Tre casete, tre casete, ieră ne tre casete. Tre casete, tre casete, ieră ne tre casete. Tre casete, bacoten, tre casete, da lasă. Frat me super basul. andiamo giù per l'Italia. E una cantante che a me piace tantissimo, di certo, è la Marina. E scenni storici dicono che ha cominciato a cantare intorno al 2000 insieme a Ranking Lele e Papa Leu, e che poi alla fine sono considerati gli eredi del Sud Sound System. E ci ascoltiamo forse la sua canzone più conosciuta. Senti come il memoria, senti c'è portata, domina, domina, domina, domina, domina, domina, domina. Quando la forza della musica te domina, riaccolesse picchia pure l'anima, te danni là, sì la forza della musica sta domina. Faccio come chi sta dentro l'unica, te dimmela, quando la forza della musica te domina, riaccolesse picchia pure l'anima, te danni là, sì la forza della musica sta domina. Faccio come chi sta dentro l'unica, te dimmela. Itta ide cenca lauri non bitenu fuore, itta sape tutto qui trucca saluti e sai, itta sente cette geni scusa in tanto cuore, itta te ne porta tutti away. Quando la forza della musica te domina, riaccolesse picchia pure l'anima, te danni là, sì la forza della musica sta domina. Faccio come qui sta dentro l'unica, te dimmela. Solo c'è in camme di gente contro, e già ho le cute idee in tu, questo motivo io canto. Qui su te non cu perce questo me sento, danni li piaci che tieni sine moi cosine. Qui c'è la forza che cresce, non se ne può uscire, la sali lauri e pesciu pecci non vuole bene, tranne se sente ci sta musica tene. Itta ide cenca lauri non vi tenu fuore, itta sape tutto qui trucca saluti e sai, itta sente c'è te tieni scusa in giallo cuore, itta te ne porta tutti e well. Quando la forza della musica te domina, riaccolesse picchia pure l'anima, te danni là, sì la forza della musica sta domina. Faccio come chi sta dentro l'unica, se dimmela. Quando la forza della musica te domina, riaccolesse picchia pure l'anima, te danni là, sì la forza della musica sta domina. Faccio come chi sta dentro l'unica, se dimmela. Ehi, hey, senti sto ritmo muoi, senti c'è porta quai, che senti come ne muoi, e lascia decidere, sta musica è come l'anima, che non può morire, e ci vuoi qui trucca luce, che lascia decidere, o che sta musica quando domina, e c'è solo sta cosa capire. Per questo sta canto moi, e ti è lasciate uscire. Quando la forza della musica te domina, riaccolesse picchia pure l'anima, te danni là, sì la forza della musica sta domina. Faccio come qui sta dentro l'unica, te dimmela. Quando la forza della musica te domina, riaccolesse picchia pure l'anima, te danni là, sì la forza della musica sta domina. Faccio come chi sta dentro l'unica, te dimmela, quando la forza della musica te domina, riaccolesse picchia pure l'anima, te danni là, sì la forza della musica sta domina. Faccio come chi sta dentro l'unica, te dimmela. Itta ide cenca lauri non vi tenu fuore, itta sape tutto qui trucca. La Marina, reggae ci sta domina. Rimaniamo sempre al sud Italia e vi ho portato i Sud Sound System. Non potevo non menzionarli in questa selezione, in questo Lifeboat Vibes. È un gruppo ragamuffin, dancehall reggae, originario del Salento. Secondo me questa è la loro traccia più caratteristica. Sì. Questa onde già nasa sera, o io sento musica intallata, beh già preparate stasera c'è una festa, ne siamo a ballare, annanzi a mare, c'è gli amici con le amiche hanno depressa, non li facciamo aspettare, cacciamo uscire. Ca sulla litorania c'è de già casino. Tocca curiamo un prima cu' ne imbottigliamo. Cusi ca manco un minuto ne perdimo. Stai buona dai cammina me na già ballamo. E c'è vedo in mena quanta gente. Tutti picchiati beni de stu ritmo avvolgente. Senti c'è bello disco ca l'usilletta sta minte. Senti c'è bell'andone sì, anche la mia se sente. E questo è solo l'inizio de sta grande serata. La parte più bella mica ancora arriata. A vedere quando tutti li cantanti se cucchiano. E uno dopo l'altro sul microfono cantano. Fate beggia besta, zira c'è una festa. Ne siamo a ballare, annanzi a mare. C'è de musica dal vivo a sulla spiaggia. Aspettiamo lo sole, che avete già a vestire. Fino a quando sento che lo ritmo è giusto. Non riesco con me te nuovo melodie che accompagno. Sto tempo che non me contento solo ballo. Qui giù riesco che me chiamo ogni fiata con puno. Senza ci penso due fiate mi vicina lo si letta. Ancora più presciata quando la gente me si aspetta. C'è no motivo ci lascio tutto per sta danza. Questa la gente canta che me dà ancora più forza. Moi moi ci resto disco che io non ci spetto più. Moi dammi ritmo che appoggia lì pensieri. Ma moi moi odio canto perché me sta c'è un locore mio e caldo e pepù. Il suo mondo c'ha l'aria dal sapore de festa. La gente lo sta cerca così così de frisca. E non sta bici l'ora canto che gioca penso. Basta che vado intorno e sai chi gioca sento. Ci canta e ci balla sento una cosa sola. E meglio stai con me e non te senti più sola. Lo giorno mi distrugge ma la notte consola. E ce n'è con la musica una cosa sola. Se moti hai depressa sto ritmo te rilassa. Se mo non tieni voglia sta danza te risveglia. Se nulla conoscevi mo nulla puoi lasciare. Staria dello sale tu ma rimane già il cuore. Già preparate stasera per la festa. Lasciamo a ballare annanzi a mare. C'è gli amici con le amiche a nude presa. Non li facciamo aspettare. Trattaremo uscire. Esciamone, vedo manice, de mena moiesti, de cebe di amici, de tanto mi piaci. Sempre comunque, si sempre bella, quando si semplice. Oh, in mena c'è stai buona stasera. Senti proprio una luce in all'aria. Hai chiude un'ora, che te sta aspetto, non amo fumato, già quasi tutto. Poi non mi dire, che te sta scatto, che in me scire. Io te l'ho detto, che sta udeciana stasera. Oh, io sento musica in all'aria. Oh, io bambun, ecco faccio casino. Si letta, gira lo disco, che qua ne divertimo. C'è dei DJ pronti uno per uno. Insieme alla gente così non è unimo. Te già preparate stasera per la festa. Ne siamo a ballare annanzi a mare. C'è gli amici con le amiche nude presa. Non li facciamo aspettare. Trattaremo uscire. Erano i Sud Sound System che combinano ritmi giamaicani a sonorità locali e in molti dei loro pezzi si sente la pizzica, la taranta e sono forse uno dei gruppi più anziani, se si può dire così, della scena reggae italiana perché sono attivi dall'89. E mi ricordo quando ero pischello che stavo a Civitavecchia alle dance hall della centrale. E la centrale passava questo da plate. Io adesso non ho un taglio, ho la chun originale, ve la faccio sentire. Le mele, le pere, le banane, le menoncette, l'ulimone, la cecora, le patate. La Roma nella bella insalata, la Roma nella bella insalata. Carbone, carbone, lascio le carboni. La Roma nella bella insalata, la Roma nella bella insalata. Carbone, carbone, lascio le carboni. Abbascia lo salento, c'ho le muto. Tocca baesina, qui gioca sape. Tocca cacce puro qualche sordo. Se non lo, la fatia non puoi trovare. Carbone, carbone, lascio le carboni. La Roma nella bella insalata, la Roma nella bella insalata. Carbone, carbone, lascio le carboni. Senti ma mie, che abbascia lo salento. Le situazioni sono tutte in verda. Gutte la fatia, tocca te spati. Oppure pesci ralli muratori. Tendete tirano lo guerre e poi ma cos'è sape? Alla semana c'è cazzo d'esse, cavaro baro baro hai belle spese. Pridimi a mia casa c'ho come te. La Roma nella bella insalata, la Roma nella bella insalata. Carboni, carbone, lascio le carboni. La Roma nella bella insalata, la Roma nella bella insalata. Carboni, carbone, lascio le carboni. Bagnunica come a me stanno menati a mezzo la strada. Illusire qualche promessa che non mai arriata. Con la famiglia è sempre la stessa suonata. La mamma carita, ma fa di ama già staccata. Che la gente devi da mezzo la strada non prende una bella cosa. Magari fa le domande, magari risolvi qualche cosa. Ma sapendo come stanno le storie è meglio me sta a casa. Cagni la gente che lì che lo culo non mi ha mai piaciuta. E solo invece che non c'è una soluzione l'ha trovata. Ma c'è de pure uscita e sbatto con porta innanzi una famiglia. E vai, anni che un culo la via. La Roma nella bella insalata, la Roma nella bella insalata. Carbone, carbone, lascio le carboni. La Roma nella bella insalata, la Roma nella bella insalata. Carbone, carbone, lascio le carboni. Ogni tanto mi chiedo a c'è cazzo sono andato a fare. Già saputo che stare così ne ha già lasciato stare. Ma visto che sono stato era burro io sto a girare. Guardo innanzi perché a rete non posso guardare. Problemi non me ne faccio e continuo a camminare. Sulla strada che solo io me posso aprire. Problemi, difficoltà se potono burro superare. Ma solo con la volontà tu ci puoi riuscire. Accetti schemi di merda per essere superiore. A me ste cose bene non me ne potono dare. Però c'è una cosa che a me piace molto fare. Cantare con l'orecchie perché poi non posso stare. La Roma nella bella insalata, la Roma nella bella insalata. Carbone, carbone, lascio le carboni. La Roma nella bella insalata, la Roma nella bella insalata. Carbone, carbone, lascio le carboni. Ulie, ulie, pesce piatti. E questa era l'ultima traccia selezionata dei Sud Sound System. Rimaniamo al sud dell'Italia, ci spostiamo un po' e andiamo a Taranto. Abbiamo qui Fido Guido, un altro cantante, reggae ragamuffin, sì, nato a Taranto, e lo contraddistingue l'utilizzo del dialetto tarantino e la predisposizione per le tematiche comunque sociali. Questa è una traccia sua, la mia preferita in assoluto, ve la faccio ascoltare. Mamma lavora da capa, mentre tutta la guagna è da due mesi spaciala. Guagna Inconfondibile quello di Fido Guido, questo melodico, questi giochi di voce. E adesso con i Lifeboat Vibes ci spostiamo, partiamo da Taranto e arriviamo in Sicilia. Qui ci aspettano i Shaka Lab, è un collettivo fondato nel 2010 di 4 MC siciliani e l'anno scorso feci un progetto in collaborazione con la Barilla dove praticamente era il timer per la pasta, 9 minuti per i tempi di cottura. Tra le tracce selezionate in questo mix c'era questa. Salve, sono lo chef Gustavo Papillo e presento una tagliata di ricciolo al cacao affiancata da una purea di zucca all'anice stellato. Ma che è sta cosa? Rispondo alla domanda di Bruno. Questo piatto sembra e assaggia come un pezzo di merda. Che delusione. Mi stai deludendo. Vuoi che moro? Moro. Prima era un forte antistress, ma adesso la cucina è solo un business. La mia generazione tutti master chef, ma chi tu chi cuoci non si capisce. Prima era un forte antistress, ma adesso la cucina è solo un business. La mia generazione tutti master chef, ma chi tu chi mangi non si capisce. Prima alla tele vedevi solo soubrette, mineri fuori di veline e ballette, ma polizieschi tutti con le manette, pieni di pistole, mitra di lupare berette. E da Rai 1 a Rete 4 alla 7, adesso è pieno di padelle, di coltelli e forchette. Tutte le porche a diventare porchette, alcuni vanno in farmacia col libro delle ricette. Da tutti i cuochi, tutti i chef, tutti i maghi del fornello, tutti i sommelier poi brindano col tavernello, si sfidano a colpi di mattarello e per arrivare primi si bucano il rotto di un carrello. Si figli benedetta 24 ore in diretta, fanno filosofia pure un capo una forpetta, io invece manco un cane a mezz'oretta. Fici primo, secondo caffè dolce mi fumava sigaretta. Prima era un forte antistress, ma adesso la cucina è solo un business. La mia generazione tutti master chef, ma chi tu chi cuoci non si capisce. Prima era un forte antistress, ma adesso la cucina è solo un business. La mia generazione tutti master chef, ma chi tu chi mangi non si capisce. Pare di cavo, regonzate tavole, apparecchiate le buone che lo chef fa i miracoli. Posate, portatevi, assettatevi comode, sorbitevi minchiate. Spiegatemi se giocate, cucinate o mangiate, vi può scangiato pesce spada con sarde salate. La gente un avo pane, piaccio pane, non schifiate, state attento con l'ultimo mocco, non va affogate. Rita, taglia, pela i peperoni, nelle tue bruschette c'hai spalmati i miei coglioni. Mix it, shake it, tutti i grandi cuochi gli fanno una pippa le ricette dei miei nonni. Se ancora guardavo la TV con questi programmi non la guardo più. Oh no, oh no. Non ci sono né ma e né se, cani e porci giocano a pari bravi chef. Prima era un forte antistress, ma adesso la cucina è solo un business. La mia generazione tutti master chef, ma chi tu chi cuoci non si capisce. Prima era un forte antistress, ma adesso la cucina è solo un business. La mia generazione tutti master chef, ma chi tu chi mangi non si capisce. Master chef, lord of the kitchen, cubby. Get the fuck up. Master chef, lord of the kitchen, cubby. Shut the fuck up. Master chef, lord of the kitchen, come get the fuck up. Master chef, lord of the kitchen, come get the fuck out my house. Chaka Lab dalla Sicilia e ci spostiamo, partiamo e arriviamo su a Milano, dove c'è un artista che a me piace moltissimo per la sua voce, è Juno Sprea, e ha cominciato prestissimo a cantare nel 2001 a 13 anni e ci sentiamo uno dei suoi pezzi più famosi. Aha! Junior Sprea per tutti i coltivatori di ganja. It's a cannabis production. Pianta la nutri, la cogli, la essiccala. Sempre se è ganja buona. Rollala nella cartina e poi fumala e gusta nell'aroma. Pianta la nutri, la cogli, la essiccala. Ci piace la paesana. Rollala nella cartina e poi fumala fino a quando ti stona. Alzala la mano se ti piace coltivarla. Se non ce la puoi fare ti accontenti di fumarla. Da quando 15 anni vado pazzo per la ganja. Organizziamo un viaggio, sono andata per l'Olanda. Che poi coi prezzi che ci sono in giro devo farmi in quattro per avere uno spino di ganja. Se ci penso mi viene il magone. La migliore soluzione resta l'autoproduzione di ganja. Outdoor, indoor, produco quanto basta. Ogni settimana sembra di essere in vacanza. Indoor, outdoor, fumo la mia ganja. Con i miei amici tutto il giorno sto in fattanza. Outdoor, indoor, non posso stare senza. Passami la canna che già sento l'astinenza. Indoor, outdoor, ganja di prima scelta. Tutti i santi giorni sembra di essere a una festa. Pianta la nutri, la cogli, la essiccala. Sempre se è ganja buona. Rollala nella cartina e poi fumala e gusta nell'aroma. Pianta la nutri, la cogli, la essiccala. Ci piace la paesana. Rollala nella cartina e poi fumala fino a quando ti stona. Quando vado via in mezzo alle Marche, la terra mia, fumo la magica con la mia zia, con i cugini e Zutrillia. Faccio certi viaggi, stimolo la fantasia. Sogno di volare sopra il mare in Tunisia. Esplode la magia, mi dona l'energia. Sale nella testa una spontanea follia. Tutti quanti uniti a fumare in simpatia. Piglia male solo quando c'è la polizia. Pianta la nutri, la cogli, la essiccala. Sempre se è ganja buona. Rollala nella cartina e poi fumala e gusta nell'aroma. Pianta la nutri, la cogli, la essiccala. Ci piace la paesana. Nel giardino, nell'armadio e sul terrazzo. Fino a settembre non stare lì a far niente. Intanto fumi l'erba del raccolto precedente. Strepitoso è un circolo vizioso. Coltivo poi raccolgo e non mi stanco mai. È reato, mannaggia chi l'ha inventato. Davvero se ti sgamano passi dei guai. Ma non ci voglio pensare. Voglio continuare a fumare con tutta la compagnia oppure solo come un cane. A progettare, poi costruire castelli di cartine che solo a pensarci sto male. Provala col bong nel carciofo e nel trifase. L'erba della zia è quella più fenomenale. D'estate, d'autunno, d'inverno, quando più ti pare. È dolce, naturale e non fa poi tanto male. Pianta la nutri, la cogli, la essiccala. Sempre se è ganja buona. Rollala nella cartina e poi fumala e gusta nell'aroma. Pianta la nutri, la cogli, la essiccala. Ci piace la paesana. Rollala nella cartina e poi fumala fino a quando ti stona. E questo era Junior Sprea. E rimaniamo in zona, un altro artista sempre nella zona del milanese di origine siciliana, Gamba De Lenk, ha cominciato a cantare nel 2006. Qui vi farò sentire prima un jingle che mi ha fatto per la radio e poi la tune che ho scelto per voi. Yeah yeah, questo qui è Gamba De Lenk su Lifeboat Vibes. Big up Mardok Selecta, Sound Alive Reggae Radio, tutte le domeniche dalle 19 alle 20:30, la zattera di salvataggio reggae. M'hanno discriminato per la passione che ho del cioccolato. Mi hanno anche licenziato perché ai colleghi davo il cioccolato. A un mio amico l'hanno estradato con una firma del suo stesso stato. Con la scuola in gita in Grecia l'han beccato che se le ha portato. Vado bene, gente andata in India adesso sai non torna più. Gente normalissima proprio come me tu. Gente che ha scordato quali siano le sue virtù. In galera è lui ma potresti esserci anche tu. E allora uova di cioccolato da Barcellona mi hanno appena portato. Ci ho fatto una torta di cioccolato. Che delizia per il mio palato. Vado bene. La mattina appena alzato, caffè, latte, cioccolato. Non mi sono più ripigliato. Io cioccolato non l'ho mica mangiato. Come fa? Mamma mia che ciocco. C'ho il ciocco marocco. Ogni giorno sciocco e la testa ciocco. Musica per gioco, mo fomento fuoco. Non mi criticate se c'ho sempre in tasca un tocco. Allora c'ho quel che c'ho in tasca, c'ho il cioccolato. Ciocco io lo pretendo perché cioccolato. Ciocco nella mutanda, ciocco manda di manda. C'ho come una sensazione di buttarmi in branda. Prendimene, prendimene, prendimene, prendimene un tocco. Dammene, dammene, dammene, e pure molto. Prendimene, prendimene, prendimene un poco di più. Sì, però fa in fretta perché non aspetto più. Allora, buono cioccolato, così buono e prelibato. Per me come roccolato, ma mi sento coccolato. Amato, son suonato, nato. Però sono pure gioco appassionato. E mo, ciocco non gioco, lo voglio. Lo so che lo stato non vuole, però non mi importa. Lo voglio per il suo profumo, per gusto e colore che assumo a gogo. A un mio amico ne ho patentato. Nel cappello gliel'hanno trovato. La patente gli hanno strappato. Ma il cioccolato lui non gliel'ha dato. E questa era Gamba de Lenk. Un altro artista che vorrei citare in questa selezione, il tempo è poco perché tra una decina di minuti cominciamo a staccare, è Nico Rojale. Ha cominciato a cantare intorno al 2003, nel 2007 se ne esce con questa canzone dedicata alla marijuana. Ascoltiamolo insieme. Erba buona, erba buona. A me piace l'erba buona, quella della montagna. La gente se la fuma invece di piangere sogna. Campi di ganja da Sasso fino a Vidiciatico. Quello che interessa soprattutto l'uso pratico. A me piace l'erba buona, quella della montagna, che cresce nelle colline che stanno sopra Bologna. Campi di ganja da Sasso fino alla Bolognina. Nico Rojale fuma solo sensimina. La fumo come quando mi va, te lo sai te lo dico. La fumo in piccola pure in grande quantità te lo dico. La fumo in casa oppure anche in piazza te lo dico. Niente sigarette, solo ganja dentro al bar te lo dico. Ed ho iniziato alla scuola media te lo dico. E la fumavo pure all'università te lo dico. La fumo adesso quando esco da lavorare. Sì, perché è naturale, allora niente di male mi fa. E fumo l'erba buona che c'è su di qua. Cresce sul fiume, cresce anche in casa. Ed è sempre buona e fresca ed è di ottima qualità. Io non compro un cazzo da chi me la spaccia. Che mi dà una cosa strana, non si sa cosa c'ha. Che mi dà mal di testa, che mi mette l'ansia. 8 euro al grammo per me è molto cara. La paesana invece è economica. A me piace l'erba buona, quella della montagna. La gente se la fuma invece di piangere sogna. Campi di ganja da Sasso fino a Vidiciatico. Quello che interessa soprattutto l'uso pratico. A me piace l'erba buona, quella della montagna. Quella che cresce a Roma come a Milano e come a Bologna. Campi di ganja da Sasso fino alla Sicilia. Nico Rojale fuma solo sensibilia. Ed è come la pasta quando è fatta in casa. Senza conservanti, senza roba chimica. Lo stesso vale per la ganja quando è coltivata. E si fa in modo un po' diverso in ogni città. Perciò nelle Blue Mountains c'è la giamaicana. Sulle cime delle Alpi cresce la Svizzera. Quella calabrese cresce sulla Sila. Qui nell'Appennino cresce l'Emiliana. E allora dimmi che faccio ti fa quando la fumi su di qua. Quando ti metti in mezzo a un prato e c'è della calma. Quando c'è una cicciola, quando fumi un personal. Quando c'è una festa, sicuro che è una dancehall. Perciò in Parlamento ganja, nei comuni ganja. Niente cocaina, fumo solo erba autoprodotta, semplice. che sincera. Mi piace l'erba accompagnata da una buona musica. A me piace l'erba buona, quella della montagna. La gente se la fuma invece di piangere sogna. Campi di ganja da Sasso fino a Vidiciatico. Quello che interessa soprattutto l'uso pratico. A me piace l'erba buona, quella della montagna, che cresce nelle colline che stanno sopra Bologna. Campi di ganja da Sasso fino alla Bolognina. Nicolo Iale fuma solo Sensimina. La fumo come quando mi va, te lo sai te lo dico. La fumo in piccola pure in grande quantità te lo dico. La fumo in casa pure anche in piazza te lo dico. Niente sigarette, solo ganja dentro al bar te lo dico. Ed ho iniziato alla scuola media te lo dico. E la fumavo pure all'università te lo dico. La fumo adesso quando esco da lavorare. Sì, perché è naturale, allora niente di male mi fa. E fumo l'erba buona che c'è su di qua. Cresce sul fiume, cresce anche in casa. Ed è sempre buona e fresca ed è di ottima qualità. Io non compro un cazzo da chi me la spaccia. Che mi dà una cosa strana, non si sa cosa c'ha. Che mi dà mal di testa, che mi mette l'ansia. 8 euro al grammo per me è molto cara. La paesana invece è economica. Ecco, questo qui era Nico Royale. Mi sarebbe piaciuto viaggiare per l'Italia, ma poi alla fine mi sono un po' perso, un po' per la timidezza, perché non è spesso, non faccio spesso queste attività così vocali. E come dice il mio carissimo amico Osce, è anche il bello della diretta. Dai, torniamo a Roma. C'è un pezzo di un artista italiano che a me piace tantissimo, in lingua italiana, è Virtus, e sempre di Roma. E difficilmente lo sento in The Yard, quindi l'ho voluto selezionare per voi. Eccolo qui. Guarda, principalmente penso che dicano che sia illegale perché gli fa comodo. E se la fuma da tutta e gli ha fatto male, la coca fa male, la ganja fa cantare. E se la fuma da tutta e gli ha fatto male, la coca fa male, la ganja fa cantare. E se la fuma da tutta e gli ha fatto male, la coca fa male, la ganja fa cantare. E se la fuma da tutta e gli ha fatto male, la coca fa male, la ganja fa cantare. Silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio. Penso bozza d'avra San Lorenzo. Uno che passa accanto e mezzo su un fumo. Io faccio cenno con la testa e vado sicuro. E me la so fumata tutta e non m'ha fatto male. La coca fa male, la ganja fa cantare. Me la so fumata tutta e non m'ha fatto male. La coca fa male, la ganja fa cantare. Silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio. Ora sei pronto per rollare, hai tutto l'occorrente, ora puoi cominciare. Ma non devi esitare, perché non stai facendo nulla, niente di male. Ma c'è chi ti vuol fregare, mostrando ciò che fai come se fosse illegale. Tu non starlo ad ascoltare, perché nessuno ti può vietare una canna da fumare. E allora ancora un tiro, la mattinata non è più appesa un filo. Ora sei pronta ad iniziare la giornata, non hai bisogno di crostate e marmellate, perché chi fuma una canna al giorno se la frusta ti torno. Non è come quelle droghe, da cui non c'è ritorno. Non te dico cavolate, ma ancora ne provate. Mo fatevi una canna e poi mi dite come state. E ve la siete fatta tutti e non va fatto male. La coca fa male, la ganja fa cantare. Ve la siete fatta tutti e non va fatto male. La coca fa male, la ganja fa cantare. Allora dimmi pulo, dico pulo, dimmi pulo. Si c'è ganja nella danza, eccolo, questo qui era Virtus che ci canta in italiano. È un artista che a me piace tantissimo, manca pochissimo tempo, è molto probabilmente l'ultima tune. Mi dispiace per chi mi sta richiedendo su Telegram magari alcune cose, però la selezione è programmata, scusatemi, e ci sarà modo per fare una seconda edizione All Italian Reggae Tune. È un artista che comunque sta sulla cresta dell'onda attualmente, questa è una traccia che a me piace tantissimo, mi piace il suo stile in italiano, quando canta in giamaicano, è molto giovane, è molto fresco, è molto attivo al sud dell'Italia, però comunque da Milano, ce l'ascoltiamo insieme. Minuti e vado, sono kiss and fly. Scrivimi qualcosa appena trovi un free wifi. I tatuaggi indiani in India non ci vai, come la giappa cinese che fai massaggi thai. Se avessi fatto, avessi detto, avessi sì, ma non ho fatto niente, infatti sono qui. Appena faccio i soldi apro una pizzeria e la chiamo Italia mia, anzi oh mamma mia. Facciamoci una foto non in HD, voglio uscire sfocato come i miei ricordi. Che bello quando nessuno prendeva accordi e suonavamo la chitarra con quei quattro accordi. All'atterraggio tutti sull'attenti che non sia mai che c'è qualcuno che applaude. Gli amici li contiamo con un pollice e brinderemo ancora solo noi, solo noi, solo noi. Tu brinda chi ci vuole male noi, solo a noi. Quando mi rispondono non lo so, è meglio se mi dici 100 volte no. E questa birra è calda anche se fuori ci sono solo 2 gradi. Mi hai detto che sei un manager di una startup, non sei razzista ma ti piace Donald Trump. Quest'anno le vacanze forse non le fai, investi per il domani. E con gli amici provi ad inventare un'app per diventare ricchi e andarsene da qua. Il lunedì è un grande motivational, ognuno che si paga il suo caffè al bar. Facciamoci una foto non in HD e non guardiamola fino al prossimo mese. Magari ci accorgiamo di essere cambiati e brinderemo ancora solo noi, solo noi, solo noi. Tu brinda chi ci vuole male noi, solo a noi, siamo noi, solo noi. E ti svuotiamo il bar. Attila, e così si conclude questa puntata del Lifeboat Vibes. Io sono Mardox Siletta e sarò ospite mercoledì per il compleanno di Taueli nella trasmissione Porte Royale. Vi lascio con il mio solito jingle di chiusura. Scusate, e ci vediamo la prossima domenica. Ci sentiamo la prossima domenica dalle 7 alle 8 e mezza con il Lifeboat Vibes. Buona serata e buon inizio settimana. Mardok, play some reggae again. You will never be made. Roots Foundation, Rabba. The sound of my love.